Quanto le mie piante mi capiscono, gli uomini se li tocco si ingrigiscono. Certo i miei profitti ben fioriscono, però le mie emozioni un po' appassiscono. Per i miei occhi tutti impazziscono, ed i miei dolci fluidi li stordiscono. Però hanno paura e si straniscono, quando il conto in banca gli finiscono. Annaffio i mercati che imbolsiscono, con spot colorati che imbottiscono. Di soldi i miei clienti che largiscono, munifici monili che abbelliscono. I sorrisi miei al curaro che sgualciscono, gli amanti miei saltuari che tossiscono. Avvelenati presto si sfiniscono, perché io non ho cuore e ti asserviscono. L'edere verde, la cicuta bianca, guarda i miei occhi, ormai sono stanca. L'edere verde, la cicuta bianca, di far promozione per far ricca una banca. Prodotti scadenti rinviviscono, grandi e piccolini si invaghiscono, ma le mie emozioni ammuffiscono, i veleni che di fondo mi infiacchiscono. Respiro i miei miasmi che blandiscono, oscuri decotti che ammansiscono, mi entrano nei polmoni ed arrostiscono. Arrivano poi al cuore e lo struiscono. L'edere verde, la cicuta bianca, guarda i miei occhi, ormai sono stanca. L'edere